elemento di notazione, direi che quando dobbiamo aiutare a ricreare una flora batterica intestinale, una flora microbica intestinale, ad esempio il pane a pasta acida, che quindi non è legato solo al lievito di birra aggiunto, ma a una fermentazione spontanea legata anche a dei batteri che sono differenti e che sono più graditi, come dire, al nostro intestino, possono aiutare a trovare meglio un equilibrio e la salute. Come si fa a trovare questo pane? Diciamo che grazie al fatto che si batta su questi temi già da tempo, ormai alcune panetterie biologiche, alcuni distributori biologici e ho visto anche alcuni elementi della grande distribuzione stanno iniziando a proporlo, quindi in realtà le leggi del mercato sono toste, se noi una cosa fa bene e la cerchiamo, troviamo qualcuno che dopo un po' ce la propone, sì, e ce la offre. L'industria quindi, risponde, l'industria per cui risponde, chiedete, quindi vi sarà dato. Esatto. Dottor Speciani, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie, buona giornata anche a voi. I batteri buoni ringraziano. E adesso ci fermiamo un attimo e poi torniamo subito dopo insieme. Essere e benessere. E siamo tornati e siamo proprio in cucina. Insieme a noi la dottoressa Paola Reverso, nutrizionista e presidente dell'associazione Il Me Più Te, un'associazione che si occupa di prevenzione primaria. Dottoressa, buongiorno e bentornata. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, noi andiamo proprio in cucina perché è nella preparazione delle ricette dei nostri menù quotidiani che possiamo adottare dei piccoli trucchetti, fare delle combinazioni più salutari per potenziare, per difendere i batteri buoni e quindi per trarne tutto il massimo vantaggio dalla loro azione. Dottoressa Reverso, da che cosa cominciamo? Molti di noi sono onnivori, ma con una preferenza per la carne. Sappiamo, ci dite voi che ne mangiamo troppa, ma ci sono persone che proprio non riescono a farne a meno, non riescono a eliminare la classica fettina. Che cosa si può fare? Basta fare piccoli accorgimenti, per esempio utilizzare molto più spesso di quanto facciamo l'aglio, la cipolla, lo scalogno, i pori, le classiche ligliacee, magari utilizzandole sotto forma di soffritto quando cuciniamo delle carni rosse o del pollo, oppure usarle per preparare delle zuppe, la classica zuppa di cipolle, o per preparare delle torte salate, usiamo magari il porro, facciamo la base di porri, poi se anche vogliamo aggiungere un piccola percentuale di salume, ma l'ingrediente principale rimane questa ligliacea che è così utile per i nostri batteri buoni. Perché la carne, le proteine animali fanno una sorta di attacco ai batteri intestinali e con le ligliacee, con l'aglio, con le verdure, le zuppe di cipolla, come suggeriva lei, smorza un po' questo attacco e così, e questo è il meccanismo? Sì, soprattutto perché la carne fa alzare la percentuale dei batteri cattivi e quindi li fa prevalere sui buoni. E allora noi cerchiamo di pareggiare. Noi cerchiamo di portare un equilibrio. Per esempio, altri alimenti che possono essere utili sono gli asparagi, la cicoria, i carciofi, che si trovano per esempio più frequentemente nella stagione primaverile e guarda caso di solito è la stagione in cui noi ci avviamo un pochettino di più verso quelli regime, quelle diete depurative in cui ne sentiamo più la necessità. Altri alimenti sono, oltre al grano, ma non il grano sotto forma di pane o di pasta, il grano in chicchi, sì, da usare per fare, per esempio, come si usa il riso. Noi siamo abituati a usare il riso con lo zafferano, potremmo provare a usare il grano, sempre cucinato come se fosse un risotto. Quindi si fa tostare come se fosse un riso e poi si porta a cottura con il liquido. Si bagna magari anche con del vino bianco, del vino rosso a piacere, lo si bagna con del brodo vegetale, in questo caso magari il brodo vegetale possiamo prepararlo noi appunto utilizzando la cipolla, lo scalogno, il porro, le carote, il sedano. E un altro cereale è l'avena, per esempio, potremmo provare qualche volta a far colazione con i fiocchi d'avena e con lo yogurt, come ci ha consigliato, ne ha parlato prima dello yogurt il professor Speciani, oppure potremmo usare per esempio anche l'avena abbinata a delle banane, per esempio in uno spuntino. Perché l'avena, dottoressa, dica la verità, non è che poi sia così buona, dobbiamo in qualche modo addolcirla, addomesticarla, renderla più gradevole, diciamo che non è che non sia buona, è neutra. È neutra, ma ecco. I fiocchi d'avena sono gradevoli, di solito sono l'alimento preferito dai bambini, perché sono i più dolci. Giustamente dobbiamo masticarli, perché per assaporarli bisogna masticarli, però per esempio i fiocchi d'avena possono essere anche utilizzati, miscelati con la farina, per preparare dei biscotti. E allora, insomma, è tutto un laboratorio. Con i giusti abbinamenti riusciamo ad avere una dieta equilibrata, varia, che appaga sicuramente il nostro gusto e devo dire che fa bene anche al nostro intestino. Questo laboratorio è sempre in attività, che ci difende, potenzia proprio il nostro sistema immunitario. È così, dottoressa? Sì, dobbiamo non dimenticare mai che tutti noi possediamo la fantasia, anche da adulti, e cercare di creare dei nuovi abbinamenti. Noi siamo, l'Italia è un paese ricco di ricette, ricco di alimenti. La dieta mediterranea rimane comunque la dieta migliore e più sana, però proviamo a fare nuovi accostamenti. Per esempio, i legumi noi li usiamo solitamente per preparare delle zuppe o in abbinamento alla carne. In questo modo però l'abbinamento della carne con i legumi è un piatto molto proteico. Proviamo invece a mangiare più spesso i legumi con i cereali, perché in questo modo nutriamo la nostra flora microbica, la nostra flora batterica, nutriamo i batteri buoni, ma anche non eccediamo con un'elevata quantità di proteine. Abbiamo la giusta quantità di proteine, anche questo è importante, e la giusta quantità di fibre. Poi i legumi sono, come dicevo prima, non si prestano solo a piatti salati. Possiamo preparare dei dolci usando i legumi. Quali ad esempio? Per esempio ci sono dei fagioli che si trovano facilmente ormai anche in Italia, che sono i fagioli a zucchi, che hanno una soia, che sono particolarmente dolci e farinosi, e si possono preparare dei dolci, magari usando anche del cacao, e vengono con una consistenza un po' diversa dal solito, ma è comunque un sapore gradevole e il piacere anche di sperimentare, di assaggiare cibi nuovi, magari dopo un pasto dove si è mangiato magari degli agnolotti a base di cardo, si è mangiato dell'arrosto, uno stufato, non serviamo il solito dolce fatto con farine raffinate, proviamo a usare i legumi. Andiamo coi fagioli, Andiamo di fagioli. Grazie dottoressa per essere stata con noi e per tutte queste sfiziose ricette che ci aiutano a stare meglio. Grazie dottoressa, a presto, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Sino a qui abbiamo fornito molti volti inediti dei batteri, ce li siamo fatti amici e questo è sicuramente un passo importante per il nostro benessere, ma per molti parlare di batteri, parlare anche di virus, significa in automatico evocare paure e a volte addirittura terrore. Signore, che succede? A quanto pare abbiamo un livello 4. Con quanti morti? Non lo so, non ci hanno comunicato le cifre. Secondo lei di che si tratta? L'organizzazione della sanità sta mettendo insieme una squadra, ma prima voglio che vai tu laggiù. Ok, possiamo cominciare. Sono state scattate in un periodo di 8 ore cellule normali prima di venire a contatto col virus. Nel giro di un'ora un singolo virus invade la cellula, si moltiplica e la uccide. E nel giro di 2 ore i virus moltiplicati hanno invaso le cellule vicine qui e qui, continuando a moltiplicarsi. È la cosa più grossa che ci sia capitata. Un virus nuovo di zecca. Quello che avete appena ascoltato è un estratto del film Virus Letale del 1995. Se vi ricordate, c'era un magnifico Dustin Hoffman ed era la descrizione di una minaccia infettiva che rischiava di diffondersi nel mondo. Alcuni decenni fa una serie televisiva intitolata I Sopravvissuti, una serie di enorme successo in tutto il mondo, aveva raccontato lo scenario di un'ipotetica apocalisse infettiva a cui riusciva a sopravvivere solo l'1% della popolazione mondiale. Insomma, verrebbe da dire, più sono piccoli, più ci fanno paura. Come mai? In linea con noi abbiamo il dottor Francesco Aquilar, psicologo, psicoterapeuta, coautore di Psicoterapia delle fobie e del panico, Franco Angeli editore. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Dottore, nonostante oggi abbiamo più conoscenze, più armi per prevenire e contrastare il rischio infettivo, i microorganismi in genere ci fanno sempre paura, evocano anche toni, no, che assomigliano, ricordano un po' la peste manzoniana. La peste che il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel milanese